Ben ritrovati e ben ritrovate alla Fuga del Gatto, una nuova puntata dopo un bel po' di vacanza che ci siamo prese, perché vabbè, ci avevamo fatti i nostri tra il freddo, Natale, le feste, le cose belle, le cose brutte, gite, eccetera. Però ci hanno detto che in realtà la maledettissima Gino ha imperversato e comunque ha approfittato della nostra assenza e ha messo lui Musica Classica in nostre, al posto nostro. Quindi, insomma, ormai ci ruba anche il posto. Fatto noto che, appunto, quando le gatte non ci sono, il topo Gino balla. Esatto. Balla breakdance su, esatto, Vivaldi. Per cui. Esatto. E, ma per farci perdonare questa assenza un po' prolungata, in realtà oggi vi abbiamo preparato un puntatone su degli argomenti scabrosi che sicuramente solleticheranno le vostre curiosità. Perché vi parliamo oggi di farinelli e più in generale di quelli che vengono chiamati comunemente gli evirati cantori, ovvero i castrati, se volete dirla in termini un po' più brutali. E, qui accanto a me, come sempre, c'è Virginia, e ormai ospite fissa. Ciao, ciao a tutti. E quindi niente, iniziamo subito direi, visto che è già un pochino tardi, sennò poi Gino e Gine si arrabbiano che sforiamo troppo. E iniziamo con proprio farinelli, perché in realtà noi non vorremmo concentrarci soltanto su farinelli oggi, sulla figura di farinelli, ma parlarvi un po' più in generale dei castrati e degli evirati, ma c'è da dire che obiettivamente Farinelli sicuramente è il più importante rappresentante di questa categoria canora. Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, c'aveva un nome che praticamente ci vuole un quarto d'ora, detto, meno male, Farinelli, è nato ad Andria il 24 gennaio del 1705 ed è morto a Bologna il 15 luglio del 1782. Una vita piuttosto lunga per l'epoca, soprattutto, praticamente si può dire che ha attraversato tutto il secolo del Settecento, quasi, ed è considerato il più famoso cantante lirico castrato della storia. Sulle questioni castrazione, eccetera, non entreremo nel dettaglio, perché sennò immagino che da casa poi svenite, provochiamo degli svenimenti, dei malori, quindi non vi preoccupate, non andremo sul pulp e sull'hardcore. Diamo per assodato che sappiate di cosa stiamo parlando. Farinelli ebbe come maestro Nicola Porpora, il famoso Nicola Porpora, e al contrario di quanto si potrebbe credere, in realtà invece, poi lo approfondiremo, non cantò mai sotto la direzione di Handel. Potrebbe venire da pensarlo perché Handel ha scritto tantissime arie per gli evirati, era un fan di questo tipo di vocalità, poi dopo magari vedremo il perché. Ma non per una serie di vicissitudini, Farinelli e Handel si conobbero, in qualche modo si stimarono, anche se era un rapporto un po' burrascoso, ma non fecero mai niente insieme. L'arte di Farinelli lo portò in giro un po' per tutta l'Europa, quindi partì da Andria perché ci nacque, ma poi in realtà arrivò fino in Spagna e visse per lungo tempo in Spagna alla corte di Filippo V e Ferdinando VI, e poi di lì finì, dopo vari altri giri, a Bologna, dove si stabilì definitivamente fino alla morte. Il debutto avviene, il di Farinelli, avviene proprio a Napoli, molto giovane, poi vedremo come mai, sotto la direzione di Porpora, proprio il maestro Porpora, su un libretto di Metastasio. Metastasio è una figura piuttosto importante nella vita di Farinelli. Farinelli lo conosce proprio in quell'occasione e iniziano, pare, un rapporto molto intenso, probabilmente amoroso anche, quantomeno di amore platonico in realtà, ma sicuramente alquanto tormentato, tant'è che, insomma, quelle notizie che abbiamo essenzialmente sono dovute a un carteggio tra i due, e Metastasio bruciò tutte le lettere di Farinelli, dal che si può forse probabilmente intuire che, insomma, c'erano scritte, per non lasciare dubbi, insomma, c'erano scritte le cose che non voleva così fossero lette. No, probabilmente no. Allora, Barney, tanto per darvi un'idea, Barney, che è un importante storico della musica contemporanea a Farinelli, ci descrive il suo arrivo, l'arrivo di Farinelli in questa maniera. Nella prima prova privata, nella stanza di Cuzzoni, Lord Cooper, l'allora direttore principale dell'opera con Porpora, notò che l'orchestra non lo seguiva, ma tutti erano trasognati con la bocca aperta, come se cadesse un raggio. Chiese loro che prestassero attenzione. Tutti confessarono che non erano capaci di seguirlo, che non erano rimasti solo inabilitati per lo stupore, bensì soggiogati per il suo talento. La forza, estensione, toni melliflui della sua voce, la ripidità della sua coloratura e in questione la sua messa di voce o impostazione, in quello che superava tutti gli altri cantanti e stupiva il pubblico. Per la formazione naturale dei suoi polmoni e l'economia artificiale nella respirazione, era capace di prolungarla in tale misura come per suscitare perfino l'incredulità di quelli quali lo sentivano. Chi, benché incapaci di scoprire l'artificio, immaginavano che si serviva da qualche strumento con quale il tono si manteneva, mentre egli rinnovava i suoi poteri respirando. Ora, questa cosa che ha un po' anche, inizia un po' a introdurvi alla tecnica e ai motivi per cui poi la voce di Farinelli risultava così incredibile. È un discorso che va inserito nel contesto culturale della musica barocca, che la cui essenza profonda era lo stupore e il senso del meraviglioso, quello, il sense of In wonder. generale, in tutta quella che viene definita, anche se un po' appunto erroneamente, insomma, si fa sempre un po' un calderone, però quella che viene definita l'arte barocca in generale, cioè in tutte le forme espressive di quel periodo, quindi dell'arte barocca, si ha proprio questa ricerca, questo senso dello stupire, del meraviglioso, della macchina che crea L'artificioso. l'artificio, che poi insomma, è una naturale evoluzione di quelle che erano state, no, le tecniche manieriste post-rinascimentali, che vanno poi a esplodere in questo periodo barocco e poi rococò, in particolare nell'arte, ma in generale, insomma, in tutte le forme artistiche del barocco, la ricerca di questa, no, la moltiplicazione dei punti di fuga, l'arricchimento, cioè erroneamente si pensa che il barocco sia no, semplicemente kitsch, non è appunto solo il kitsch, L'eccesso. l'eccesso a definire il barocco, ma sia nella musica sia appunto nelle arti visive, seppur con le dovute differenze, il barocco è un'espressione di questa molteplicità e della messa in scena. Infatti non è un caso che il primo, no, le prime grandi costruzioni sceniche, le prime grandi appunto artifici nascono in questo momento, e così poi nel vestiario, e così poi appunto nella musica, insomma, in generale, perché proprio il barocco è rappresentativo di questo, insomma. Sì, poi diciamo che effettivamente riprende proprio dall'umanesimo, dal Rinascimento stesso, le due epoche sono molto legate in realtà. E, appunto, parte da lì e cerca di andare avanti nell'esplorazione di quanto l'uomo possa creare di incredibile, di meraviglioso, sempre di più in qualche modo. Eh sì, se appunto il marianismo, cioè se appunto l'umanesimo era ancora tendeva all'essenzialità, no? Legato poi al classicismo, alla Grecia, il barocco appunto attraverso il manierismo, poi fino al barocco, arriva proprio a degli estremi di appunto di quanto l'uomo può spostare i propri limiti e quanto può arricchire e creare e appunto soprattutto questo senso di moltiplicare, cioè di portare alla potenza, no? All'estremo quello che insomma, che la sua espressione può fare, quindi l'arte può fare. Sì, e poi secondo me c'è anche almeno io ce lo vedo un sacco, sarà perché sono una fan del barocco, soprattutto musicale, quella attenzione allo stupire, ma uno stupore proprio di bambino, cioè il creare delle melodie, dei suoni che in qualche modo ti lasciano a bocca Senso aperta. della meraviglia, appunto, Esatto, in no? modo estremamente buono, non tanto per una dimostrazione di potenza, ma per proprio un volerti lasciare a bocca aperta e volerti stupire con qualcosa di bellissimo. Ora, a questo punto, per farvi ascoltare ciò di cui stiamo parlando, vi facciamo sentire un primo pezzo, è il più lungo che vi andiamo a far sentire perché dura, mi sembra, all'incirca 13 minuti, mentre gli altri sono molto più brevi. Si tratta di un'area attratta dall'Artaserzer. Sì, l'Artaserzer è tipo l'Alka-Seltzer. Artaserzer. E bisogna dirlo. di Riccardo Broschi, che è il fratello, era il fratello di Farinelli, che ha scritto gran parte delle cose che poi Farinelli ha cantato. È un'area che si intitola Sol qua nave che è agitata ed è strafamosa, è una delle arie più conosciute tra quelle composte per Farinelli. L'esecuzione è di David Hansen, un controtenore contemporaneo piuttosto interessante, e poi vi spiegherò come mai e perché questi ascolti sono fatti da controtenori essenzialmente. Ma intanto sentitevi Artaserzer, Sol qua nave. Oh, Oh, Eccoci qua di nuovo. Questa che avete sentito era appunto, come dicevamo, l'esecuzione di David Hansen di Son qual nave che agitata, tratto da Arte a Serse, di Riccardo Broschi, in arte il fratello di Farinelli, per legare le cose. Allora, l'esecuzione che abbiamo sentito, insomma, è quella di un controtenore sopranista. Nel particolare David Hansen, piuttosto bella secondo me. Non esistendo più gli evirati cantori, normalmente cioè, si pone un problema, ovviamente, no? Che queste arie sono state scritte, composte con in mente un particolare tipo di timbro, ma non solo, anche una capacità esecutiva di un certo tipo e un risultato, cioè una voce diversa, insomma. Non ci sono più gli evirati, anche per fortuna, insomma, effettivamente, e quindi ci si pone un problema: a chi le facciamo cantare? Normalmente queste arie vengono eseguite da donne soprano. Questa è stata la prassi, soprattutto nei decenni scorsi, bisogna dire. Secondo me, io non sono per questa scuola, nel senso che secondo me è abbastanza snaturante di quello che poi era probabilmente la filologia che invece questi brani vorrebbero. L'alternativa, soprattutto negli ultimi decenni, si è un po' più imposta, è di far eseguire queste arie da uomini controtenori. I controtenori sono essenzialmente un tipo di impostazione vocale che fa sì che degli uomini imitino in tutti i modi la voce di una donna. Quindi è una voce che non rinuncia delle sonorità anche basse. Ora non è il momento questo, perché chiaramente quando ascoltiamo delle aree pensate per Farinelli o per comunque degli evirati, si tende sempre a valorizzare le note alte e l'agilità in alto, ma i controtenori molto spesso hanno un'ottima estensione anche verso il basso e dei colori molto belli anche nelle note più basse. Però poi sono anche in grado di andare molto in alto, spesso col registro di testa, non sempre, anzi. Però diciamo che insomma i controtenori riescono in qualche modo a imitare una voce quantomeno abbastanza femminile, come avrete sentito nell'esempio di prima. Allora, in entrambi i casi, quindi, che sia che si facciano cantare questi brani da donne, soprani, sia che si facciano cantare da uomini controtenori, si compie ovviamente una sorta di compromesso. Perché nessuna delle due voci rispecchia veramente quella di un castrato e non possono darci una vera idea di come erano invece questo tipo di voci. Poi dopo più in là vi racconteremo di esperimenti che sono stati fatti proprio grazie all'ausilio della tecnica per provare a rendere ancora più estremo questo compromesso. Però diciamo che in entrambi i casi, sia che si facciano cantare da dei soprani che da dei sopranisti, in ogni caso il risultato non sarà mai quello che veramente era la voce di un evirato. Le voci degli evirati erano nel Settecento le principali, le più ricercate, anche le più pagate, in realtà di tutta l'epoca barocca. A ruota seguivano quelle dei soprani, ma in realtà la fama e la gloria era quasi soprattutto per i castrati, perché era uno strumento musicale potentissimo quello che avevano gli evirati, poi spiegheremo meglio il perché, ma di fatto loro avevano delle voci bianche, possiamo dire comunque delle voci femmine in qualche maniera, però amplificate da una cassa toracica che era quella sviluppata di un uomo con uno sviluppo normale, e aveva quindi questo permetteva dei fiati lunghissimi, delle messe di voce veramente impensabili, il che faceva sì che dei brani con delle lunghissime frasi potessero essere eseguite di un sol fiato, cosa che insomma una donna vi posso garantire che magari. La castrazione fatta prima della pubertà aveva come effetto immediato quello di interrompere lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Alla fine tutto si riduce a questo. Per quanto riguarda il canto, essenzialmente impediva la muta della voce, che poi era quello per cui... cioè il primo effetto, quello più ovvio, quindi insomma. La voce non acquisiva poi le caratteristiche basse che prende poi nello sviluppo maschile, ma rimaneva, per capirsi, sì, rimaneva in alto. In alto, cioè rimaneva quella di un bambino. Se avete mai sentito i cori anche dei bambini, un bambino ha una voce che va molto in alto, una voce molto pura, molto limpida, perché non è in qualche modo, non ha quel timbro, quel colore, cioè non gli viene aggiunto quel tipo di, vabbè, è una questione proprio fisica, nel senso che la laringe e tutti gli organi fonatori sono ancora molto sottili, molto piccoli, e quindi assomigliano poi a quelli di una donna, perché la donna ha gli organi fonatori diversi ovviamente da quelli di un uomo, il che poi porta a un'estensione più alta, un'estensione più bassa. E quello che poi però si aggiunge è anche il colore, non è solo una questione di estensione ma di colore. Mentre un bambino ha una voce molto, appunto, chiara, cristallina, con poche ombre, diciamo, dentro, un uomo o una donna, mano a mano che crescono, proprio per una questione fisica, il viso, poi vabbè, senza contare il fiato e tutto il resto, lì si apre un mondo, però di fatto tutti gli organi, quelli che vengono detto di risonanza, fanno sì che la voce si colori e assuma spesso dei toni più tenebrosi, diciamo, comunque più ricchi. Ha una pasta diversa rispetto a come è nella pubertà. Esatto, quella che viene detta la tessitura. Nel castrato chiaramente la voce rimane quella limpida, pura, senza ombre, senza tessiture composte di un bambino. Però in realtà questo era... cioè la muta, e quindi ok, però in realtà le altre parti del corpo si sviluppavano normalmente come in un maschio adulto, quindi la testa, le cartilagini facciali, che poi sono quelle che fanno da risonanza appunto per i suoni emessi alla voce, cioè immaginiamoci una chitarra, il suono della chitarra viene così, non solo per le corde della chitarra, ma per la cassa che fa da cassa armonica. Insomma, allo stesso modo la nostra testa e le nostre ossa, le nostre cartilagini fungono da cassa di risonanza. Ecco, le cartilagini facciali e tutte queste cose qua annesse in un castrato sono le stesse di un maschio adulto. Lo stesso sia per i polmoni e il diaframma. Quindi insomma essenzialmente si otteneva una voce sottile ma in un corpo da una grandissima potenza sonora, una capacità polmonare molto molto estesa, a cui in realtà si aggiungeva un intensissimo lavoro tecnico di affinamento, di potenziamento, per cui non è che si può dare tutta l'importanza soltanto alla natura, insomma, che se quando si parla di castrati parla di natura un po' suona strano, però... cioè diciamo che non è soltanto il timbro particolare la questione. Farinelli, ad esempio, aveva sicuramente una bravura tecnica incredibile, al di sopra della media, insomma. Ora però vi ho detto tutto questo per farvi capire più o meno, per farvi un po' immaginare di che voce stiamo parlando, ma l'unico esempio che può darci un'idea di come fosse davvero la voce di un Evirato è una registrazione, che è l'unica registrazione a disposizione oggi, che è quella di Alessandro Moreschi, che è l'unico autentico Evirato cantore di cui siano rimaste registrazioni, perché... lui morto nel 1913, comunque è stato soprano del coro pontificio dal 1883 al 1913 nella Cappella Sistina, e quindi noi abbiamo queste registrazioni che sono dell'inizio Novecento, quindi la voce di Farinelli non la potremo ascoltare mai, e quella neanche degli altri, ma la sua la possiamo sentire. Chiaramente è una registrazione molto degradata e veramente poco chiara. Questa che vi faccio sentire è stata un po' ripulita, ma insomma si sente male. Si tratta comunque di una delle prime registrazioni. Sì, è un po', lo sentirete, è molto, insomma, non è proprio una meraviglia. Però sono comunque ovviamente dei documenti preziosissimi. Alessandro Moreschi, dobbiamo dire che era un po' una perla rara per il momento, ma non aveva sta gran vocalità, soprattutto a livello tecnico. Cioè, diciamo che c'è anche una sensibilità diversa adesso, per cui quello che ascoltiamo adesso ci sembra, il tempo era... cioè, si apprezza di meno. Però lui in particolare, insomma, pare non fosse un gran cantante. Però è molto interessante ascoltare la voce, il tipo di voce che probabilmente in qualche modo assomigliava a quella di Farinelli, ci può dare un po' un'idea. Fate più che altro vi consiglio di fare caso, al di là dell'estensione, di dove arriva, che vabbè quello è interessante, ma fino a un certo punto, al colore proprio della voce, che è un colore molto androgeno, inquietante. Cioè questa registrazione in realtà mi fa paurissima. E che è estremamente, un colore estremamente diverso a quello di una donna, ma soprattutto anche a quello di un controtenore, insomma. E che dici? Non lo so, se hai altre cose da aggiungere, se no vi faccio sentire questa cosa. No, vai. Allora, pure sentiamocela. La clip. Brividi e paura. Ecco, e questa era l'Ave Maria di Bach, interpretata da Alessandro Moreschi, appunto l'unico esempio sonoro che possiamo avere di Evirato cantore. Non so voi, a me è una registrazione veramente conturbante, potrei stare ad ascoltarla per ore, anche se è veramente paurosa, però ha delle cose veramente belle, anche e soprattutto sulle tonalità basse. Cioè, non so voi, ma a me i colori scuri che piglia questa voce mi fanno venire i brividi. E, va bene, per quanto riguarda la tonalità, appunto, pare che questa dipendesse un po' dall'età in cui veniva praticata l'evirazione. Essenzialmente cosa succedeva? Prima avveniva e prima aumentava la possibilità di ottenere un sopranista, cioè ovvero un castrato, un uomo che riusciva a cantare con le tonalità del soprano femminile. Se si aspettava un po' di più, chiaramente si era più vicini alla muta e quindi la voce era un po' diversa. Quindi probabilmente si entrava già nella sfera del mezzo soprano, del contraltista. Sì, in realtà però c'è questo fatto che non è che una volta determinata la tonalità questa rimaneva sempre uguale. Chiaramente, essendo il corpo umano molto variabile, insomma, in realtà anche soltanto se ti rompi un dente la tua voce cambia. Quindi insomma era volubile di diverse trasformazioni. Cioè questa cosa non era una garanzia, insomma. Sì, non è mica detto. Magari tu ci avevi. Perché poi, insomma, in età prepuberale, cioè i bambini erano molto piccoli, veniva fatta praticata la castrazione e poi chissà che succede, in realtà dopo non si sa come andava a finire. E questo era un grosso problema perché di fatto sembra una cosa orribile, lo era in effetti, i bambini erano un investimento, cioè per una famiglia, molto spesso i castrati provenivano da famiglie non nobili, non particolarmente agiate, anzi molto spesso di umili origini, e l'intervento di castrazione, che tra l'altro era vietato, ora poi lo diremo meglio, veniva fatto come un investimento, per cui tu magari avevi quattro figli maschi, scommettevi cioè vedevi, e che poi tra l'altro la sfiga era che insomma sì, ok, la voce magari è bella, ma non è mica detto che tu sappia cantare, poi magari sei stonato come una campana, c'è una voce fighissima. Oddio, magari, ecco, probabilmente cercavano gente che magari una minima, provavano su alcuni esemplari, sì. Che una minima... No, infatti magari è stonatissimo, poi, no. No. Però comunque sia, però non è detto... Non era garantito, insomma. Esatto, perché poi comunque insomma la voce è fatta di tecniche, è fatta di tante cose, per cui non c'è soltanto le doti naturali, per cui magari e te scommettevi tutto su questo, cioè poveraccio, sottoponevi sto figlio a questa tortura e lo devastavi per tutta la vita e poi magari manco veniva. E quindi insomma è molto triste tutto ciò. E quindi cosa succedeva? Che quelli più che venivano bene, quelli diciamo, venuti bene, quelli lì praticamente ti avevano fatto svoltare per tutta la vita, a te sì. E a tutta la tua famiglia, per generazioni, perché era, ora senza arrivare a Farinelli, che era ovviamente il capo dei capi, ma anche tutti gli altri virati comunque erano ricchissimi, pagatissimi, molto più di qualunque altro musicista, e i musicisti al tempo non erano come e molto ora. Più dei compositori, se mi si molto permette, più dei compositori, poveracci, come abbiamo già ben visto, sì, perfino cioè, il povero Mozart, insomma, sì, erano proprio il fiore all'occhiello delle corti, cioè erano proprio, avevano svoltato, ma tra l'altro appunto avevano svoltato per generazioni. Quindi se ti andava bene, ti andava veramente bene. Se ti andava male, ti andava veramente male, nel senso che nella migliore delle ipotesi finivi nelle sfere ecclesiastiche. Sì, finivi a cantare nel coro della chiesa. Esatto. E tutto insomma, ciò. Con tutto quel che ne consegue, sì. Ecco. Ecco, anche perché dopo lo spiegheremo, lo diremo, cioè insomma gli evirati suscitavano un bel fascino, sì. Soprattutto negli ambienti della chiesa. Possiamo immaginare perché. Esatto. E quindi era proprio una sfiga da tutti i punti di vista, ecco. Farinelli, ad esempio, non era un sopranista, pare, nonostante arrivasse a delle vette incredibili, ma più probabilmente si dice fosse un mezzo sopranista, molto esteso, sia in alto che in basso. E la sua estensione pare che potesse andare da un do seconda a un do quinta, che è una roba incredibile, soprattutto per un castrato arrivare a un do seconda, che veramente in basso era veramente poco usuale. Dietro a tutto questo c'era, come dicevamo anche prima, un lavoro tecnico non indifferente, per cui insomma lui era proprio, d'altra parte, fin da piccolo l'avevano praticamente progettato per questo e lui aveva continuato così. Caffarelli, che è un altro celebre evirato, descrive il lavoro quotidiano sulla voce così. Allora, mattina, un'ora di passaggi di difficile esecuzione, un'ora di lettere, un'ora di esercizi di canto davanti allo specchio per apprendere i vantaggi della parsimonia e i rischi dell'abbondanza nei gesti e nelle espressioni da fare in scena. Cosa che io trovo bellissima. Sì, cosa che diversi si dovrebbero ricordare. Esatto, anche adesso. Che... E non solo loro. E pomeriggio, mezz'ora di teoria musicale, mezz'ora di contrappunto improvvisato su Cantus Firmus, un'ora di lettura dei libretti che gli allievi avrebbero in seguito intonati, infine esercizi di respirazione. E sulla respirazione Farinelli, insomma, ne sapeva veramente a pacchi. Vi faccio sentire un altro pezzo sempre composto per Farinelli, che è questa volta composto da Geminiano Giacomelli, tratto dalla Merope, dall'opera Merope, e l'aria è Sposa non mi conosci. Questa volta l'esecutore è sempre un controtenore, ma è Filip Jaruzelski. Il pezzo è andato in onda, mi veniva da dire, è stato eseguito per la prima volta a Venezia nel 1734. E, un pezzo veramente molto, molto bello, secondo me. E Jaruzelski, insomma, è uno dei controtenori contemporanei più interessanti, a mio avviso. Thank you. sì, quindi Sposa non mi conosci, tratto dalla Merope, Geminiano Giacomelli, 1734, interpretato da Filip Jaroussky. In effetti Sposa non mi conosci, si diceva madre neppure. No, ne conoscevano bene effettivamente. Neppuraci. Ma descriviamo un attimo il l'humus, il contesto. Sì, il contesto in cui questi poveracci, che paremano un po' dei barboncini, si muovevano. Nonostante appunto il loro incredibile valore, però dovete capire che il teatro in quel periodo non era proprio un meraviglioso pozzo di cultura come ce lo potremmo immaginare, era più un covo di vipere. Sì. E spesso, cioè, era il luogo dove si andava per moda, cioè dove comunque, cioè, non è che c'era tanta altra roba da fare, quindi quello era un po' il palcoscenico più per gli artisti, più per le dame e i gentiluomini che andavano a far vedere i vestiti, che andavano a fare relazioni, a conoscere quello e conoscere quell'altro. Insomma, era di fatto un modo per fare... Sì, beh, era più un luogo di vita sociale, in realtà, sì. un po' a prescindere da quello che c'era sul palco, diciamo, soprattutto in questo momento storico. Sì, si ostentava appunto la propria ricchezza. Insomma, era un momento dove appunto lo status sociale veniva esibito, eccetera. E quindi si andava a teatro tendenzialmente in quel periodo solo per sentire il cantare il castrato in voga, o comunque sì, perché quello era la cosa più importante, era la cosa più figa del momento, quindi si andava lì perché era imperdibile. Ma come, non hai visto Farinelli, oddio? E quindi ci si andava, gli altri cantanti, i poracci, venivano completamente passati in secondo piano, e... Tanto più la musica e tutto il resto, ovviamente. E tant'è che il pubblico spesso, essendo il teatro fatto di piccole, cioè c'erano piccoli anfratti dove stavi. Oggi non mi vengono un cazzo, non mi vengono le parole. Beh, se si parla di teatri che erano già all'italiana, quindi intesi come si intendono adesso noi, no? Con i palchi, sì. Quello è il teatro all'italiana, quindi forniva già, insomma, una serie di palchi che diventavano poi piccoli appartamenti, esatto. Privati al momento che veniva chiusa la tenda, e il che vi fa capire già, insomma, sì, quanto in che direzione, fosse... quanta attenzione venisse prestata. Cioè, bisogna davvero cercare di capire e di immaginarsi, che è difficile per noi, perché per noi insomma, per chi ha la fortuna di poterci andare, che il teatro sia qualcosa in cui, appunto, un momento in cui ti rivolgi l'attenzione, no? A uno spettacolo. Tutti sono concentrati, sono concentrati. Questo è più una derivazione di quello che era il teatro di corte, in realtà. Cioè, il nostro concetto di teatro è più figlio di un teatro in cui l'attenzione è... all'epoca, appunto, nella corte per forza, nel nostro caso per volere, ma è figlio di un concetto diverso. Questo teatro di cui si parla, che avrà poi comunque il suo percorso, si trasformerà più volte nei secoli, è appunto, come diceva Maria, completamente diverso, cioè è un teatro rivolto quasi più all'interno che verso il palcoscenico. Sì, è quasi un po' di intrattenimento, spesso diventava... E tant'è che appunto nei piccoli palchettini ci si chiudeva, si giocava a carte, ci si cenava. Sì, c'era, si parlava di quello e quell'altro, c'erano le dame che incontravano il cavaliere via e via, gli amanti, c'era tutto, insomma, succedeva di tutto quei palchi, se potessero raccontare. Per cui, insomma, lo spettacolo che c'era era alla fine, insomma, di relativo interesse, insomma, ci si andava non tanto per lo spettacolo, ma quanto per andare al teatro, comunque, sempre chi se lo poteva permettere, perché si sta parlando l'altro. Comunque di un'elite, non si sta parlando, sì, certo, probabilmente di... chi non se lo poteva permettere, se ci fosse potuto andare, sarebbe stato esatto. Attentissimo. Questa cosa si vede abbastanza bene nel film Amadeus, che abbiamo citato un po' di puntate fa, rispetto alla puntata su Mozart e Salieri, perché ci sono delle scene in cui si vede proprio bene questa differenza tra il teatro pubblico, tra virgolette, e quello di corte, e si vede appunto bene questa cosa, questo aspetto, insomma, il film lo rende piuttosto bene. Sì, tra l'altro si diffuse anche questa pratica che appunto c'era tutta l'opera, c'era il momento in cui entrava in scena il levirato e tutti aprivano, aspetta, aspetta, fammi sentire, e tutti ascoltavano e ammaliati, lacrime, gente che si strappava le parrucche e via. Finiva lui e tutti gli altri, boh, ritornavano a parlottare e non se ne fregavano altamente, tant'è che le altre arie secondarie e terziarie, così che erano affidate a voci che poi per il gusto dell'epoca spesso e volentieri erano voci più basse, cioè con tonalità più basse, che quindi venivano un po' nel gusto, sembrava che fossero quelle che valevano di meno, venivano definite arie da sorbetto, che già fa capire Pensate. il momento, infatti. Sì, ecco, questo è proprio il momento in cui questo aspetto è più estremo nella storia del teatro, c'è sempre stato, ci sarà anche più avanti, si pensa appunto al fatto che la gente andasse a sentire Verdi e si ricordasse solo un'aria e stesse attento solo a quell'aria lì, cioè c'è comunque, ci sarà appunto anche più avanti nella storia, non, continuerà questo aspetto, però sicuramente in questo momento è proprio il momento in cui, un po' per come si diceva prima, per la natura stessa del barocco, no? Di questo estremizzare, del vivere all'estremo un po' tutti gli aspetti della vita, per quanto sia, insomma, fosse possibile, insomma, dalla morale e dal resto. Ed è anche infatti non a caso il Settecento l'epoca, no? Più scevra, che più riesce a liberarsi in certi aspetti dal controllo, dalla moralità, sempre declinata in senso, no, di sotterfugio, dell'avere l'amante, del ci si sbeva, insomma, di certe pratiche che ufficialmente rimanevano nascoste, ma che poi, insomma, avevano grande appeal. È sicuramente questo il momento più estremo, appunto, per questo modo di vivere il teatro. Non a caso questo darà poi vita a tutto un concepire il teatro invece estremamente opposto, cioè musicisti che verranno un po' dopo nel tempo, come Wagner, per esempio, ma anche come altri, rifiuteranno completamente questo concetto del teatro come distrazione, come luogo sociale, e vorranno invece depurarlo e lo riformeranno completamente. In particolare Wagner, tutta la sua opera si basa proprio sul riportare l'attenzione a ciò che accade sul palco. Addirittura nascondere l'orchestra perché nemmeno bisognava vedere i musicisti per distrarsi, e perché il teatro è un passaggio mistico, è un passaggio di apprendimento, quindi si ritornerà poi proprio al concetto di catarsi del teatro dell'antica Grecia, per cui proprio in contrasto a tutto quello che fino all'abbondante fine del Settecento, ma anche inizio Ottocento, ancora accade nel teatro. Darà vita poi invece, come sempre, a un estremo contrario, a una ricerca di essenzialità e di misticismo e di sacralità nel Sobrietà. teatro. Sì, poi appunto non si parla di non fare cose fantasmagoriche, anzi, sul palco avverranno sempre di più, soprattutto con Wagner, però si tratta proprio di considerare il teatro come appunto un luogo sacro, un tempio, e non più come un luogo di intrattenimento. Chiaramente, cioè, la storia non è fatta di, no? Non è una linea retta in cui le cose avvengono una dopo l'altra, ma ci sono ovviamente deviazioni e sovrapposizioni, quindi tutto questo chiaramente non avverrà in un giorno e non avverrà immediatamente e nemmeno completamente, ahimè, per il povero Wagner, ma tuttora la signora ingioiellata va a sentire Puccini alla Scala e non era certo quello che Wagner avrebbe voluto, però diciamo che attraverso anche il romanticismo, insomma, attraverso una serie di cambiamenti molto grossi, tutto questo apparato che c'è in questo momento, ecco, andrà poi a ripulirsi e a riportare l'attenzione inevitabilmente, anche perché questo è proprio il picco massimo. Non a caso la voce del castrato lo rappresenta bene, perché è proprio, no, il massimo del Eh momento sì, è in cui l'estremo. l'attenzione è soltanto concentrata su di lui, manco sugli altri cantanti, quindi nemmeno come nell'opera, almeno nell'aria ce n'era due o tre, o il soprano piuttosto che il tenore, il controtenore, no, cioè qui è proprio tutto Sì, tra su l'altro, una cioè, persona sola, quindi Ecco, tra l'altro il librettista sarà stato contentissimo, cioè lui magari sarà fatto tutta una storia. No, no, niente, non gliene fregava niente, cioè c'era lui, è quasi molto pop in realtà questa cosa, cioè forse è il momento in cui si avvicina, è quasi, è buffo perché è postmoderno, cioè era veramente precursore di tutto quello che poi invece la musica e l'arte saranno 300 anni dopo, cioè il concentrarsi su un cantante. È la star, cioè questo è proprio il concetto, già molti cantanti lirici lo sono e lo saranno, appunto il castrato era proprio il massimo perché era proprio la rarità e il concetto di rarità, e poi la smetto veramente, il concetto di rarità nel barocco è fondamentale, la perla è il simbolo del barocco, significa proprio questo, cioè la perla che si trova all'interno della conchiglia, la perla rara e che stupisce, che nasce da una conchiglia, quindi viene fuori appunto no? dal nulla, dalla natura, dal nulla no, dalla natura. Sto semplificando ovviamente molto, però è questo, cioè il concetto di rarità, di diversità, di unicum è fondante per il barocco, cioè è proprio il concetto su cui il barocco si basa, l'essere speciale, l'essere meraviglioso e quindi ammirato e quindi voluto, desiderato in tutti i sensi possibili. Ecco, questo è un po'... Eh sì, ma infatti cioè anche noi siamo meravigliati da Farinelli come Elvis, però, però perle rare. No, tra l'altro no, non ovunque, non in tutti i luoghi erano apprezzati alla stessa maniera gli Evirati in realtà, perché per esempio in Francia non andavano. I francesi devono sempre fare difficili, che ovviamente. Che palle, veramente. I francesi. Eh sì, e loro non gli piacevano. Invece in Italia andavano a bestia e in particolare in Vaticano. Non avevamo dubbi. E sì, alla Chiesa i castrati piacevano un sacco. E tra l'altro in parte questa cosa è dovuta alla bolla papale, del periodo che imponeva il silenzio in chiesa alle donne, e quindi le donne di punto in bianco non poterono più cantare in chiesa, già tanto ce le facevano entrare comunque. Tra l'altro, cioè poterono entrare ma stava zitte, sì, da una parte, silenzio. E quindi prima che c'era un repertorio di fatto incentrato molto sul canto femminile, loro si trovarono come dei deficienti che avevano dei bellissimi repertori che nessuno poteva cantare. Allora un uomo che riesce a cantare il repertorio femminile aggira l'ostacolo, certo. Di fatto. Ovviamente si faceva finta di ignorare che i castrati, cioè come il modo in cui i castrati riuscivano a girare questo ostacolo, perché la pratica della castrazione era ufficialmente vietata dalla Chiesa. Però d'altra parte la Chiesa, insomma, sono secoli che ci abitua a questo tipo di ipocrisie e quindi non è che questo per loro era strano. Cioè erano tutti contenti che i castrati cantavano benissimo queste arie senza, facendo finta di capire, cioè di ignorare come mai ci riuscivano appunto. Chissà era come mai. Così. Hai visto? Strano. Miracoli divini, loro Qual ci è incredibile. Giustamente. Oltretutto il suono che usciva dalle bocche dei castrati, ricordiamoci la registrazione di Alessandro Moresco che abbiamo sentito all'inizio, era qualcosa di estremamente affascinante e conturbante agli occhi di un prete, di un prelato. Era una voce androgina, pura come quella di un bambino, ma che in qualche modo conteneva in sé anche l'oscurità dell'uomo adulto, il peccato già in qualche maniera. Quindi c'era la purezza... Ma come rovescio della medaglia di questa purezza c'era già contenuta in quella stessa purezza un qualcosa di peccaminoso, un po' di qualcosa che lo rovinava. E questo penso che per un prete, secondo sì, era me. Anche un po', forse anche figata. Era un po' una metafora del. No, dell'umano che cioè del divino che viene corrotto poi dall'umanità, insomma del principio di adamico per cui l'uomo esatto. Perfetto viene poi già però intaccato subito dal peccato, quindi forse non so, volendo stiracchiarla, però potrebbe essere anche un po' per loro una metafora del appunto del connubio tra il divino e poi l'umano, insomma. Sì, anche questo continuo gioco tra questo braccio di ferro, tra ricerca della purezza e inevitabile corruzione, evidentemente. Quindi, secondo me, appunto, questo era uno dei motivi per cui, tranne poi, cioè, sorvolando su quelli invece più ovvi Chiaro. E più scabrosi che voi tutti immaginerete. Ora, l'ultimo pezzo che, non so se è l'ultimo, in realtà ce n'avevamo forse anche un altro che ci piaceva farvi sentire, ma vabbè, intanto sentitevi questo, perché come dicevamo all'inizio, Farinelli non cantò mai per Handel, Handel però compose diverse arie per Evirati, e ora ve ne facciamo sentire una delle sue più famose. Handel, tra l'altro, le partiture di Handel spesso sono incentrate su delle messe a fiato veramente lunghe, difficili, e cioè lo dico perché mi è toccato studiarle, sono Per veramente difficilissime. esperienza. Oh, che fatica, che un incubo. E però queste messe a fiato in realtà sono tanto più meravigliose quanto meno si riesce a far sentire la presa di fiato, chiaramente, no? Quindi la bravura stava nel prendere fiato perché sennò muori, ma non farlo sentire. Pare che Farinelli sia stato un po' l'unico, volendo, che aveva questa dote incredibile e capacità tecnica ottima di buttare fuori la voce in un'unica missione di fiato e poi riprenderlo in una maniera quasi magica, cioè non si capiva dove finiva un'emissione e dove ne iniziava un'altra. E questo flusso continuo nelle partiture di Handel era molto importante perché dava molto risalto alla sua musica che insomma veniva valorizzata in questa maniera e veniva letta per come doveva essere. Quindi Handel, 20 turbini tratti da Rinaldo, purtroppo non abbiamo l'esecuzione di Farinelli che chissà come sarebbe stata, ma l'esecuzione del controtenore che vi ho fatto sentire prima, Filippo Geruschi, e niente, sentite anche questa, sono 3 minuti e 56, quindi piuttosto brevi e siamo quasi in chiusura. no. Io faticavo mentre la sentivo, cioè facevo, oddio, mi veniva il patema. E questo era appunto tratto da Rinaldo, Venti Turbini, di Handel, molto riconoscibile. E ora veniamo all'ultima parte di questa trasmissione, tra poco vi lasciamo a 3000 siepi. E l'ultima parte sono un po' le opere che cinematografiche, teatrali, insomma visive, che ci hanno raccontato di Farinelli. Quindi chi ci ha un pochino ha raccolto l'eredità e ci ha, si è occupato di farci un po' una storia di chi era Farinelli e di chi erano gli Evirati Cantori. In particolare abbiamo il film che vi ricorderete, perché non lo so, io essendo figlia degli anni 90 il film me lo ricordo bene. Purtroppo, in questo caso. Mamma mia, è un film orribile. Ce lo dobbiamo ricordare, sì. Perché purtroppo una delle poche opere visive, almeno credo, insomma, non ne conosco altre, su Farinelli è appunto Farinelli Voce Regina, che è un film del 94 del regista belga Gérard Corbiot. Spero di averlo pronunciato bene, di produzione italo-francese, sulla vita del celebre cantante appunto Carlo Broschi in arte Farinelli. In realtà il film è stato premiato addirittura come miglior film straniero ai Golden Globe di quell'anno, ma perché? E ricevette una nomination all'Oscar, il che direi che, come sempre la mia teoria prova, che l'Oscar e i premi sono inversamente proporzionali alla qualità, ma questo è un altro discorso veramente. In realtà appunto ricevette fin dal suo esordio critiche piuttosto contrastanti. L'attore italiano Stefano Dionisi interpreta il protagonista e se non mi sbaglio il fratello era interpretato, da un altro attore italiano. Non me lo ricordo, però erano due che andavano per sì, la maggiore. Ma tuttora lui ora non mi viene, mi verrà sicuramente. Io mi ricordo che Stefano Dionisi c'era tutti i poster su Cioè. Ecco, Dionisi era uno che all'epoca considerato insomma un po' un figaccione del momento, e quindi scelsero appunto lui, che però purtroppo. Non so se per sua scarsa bravura o per un po' per pecche della sceneggiatura, piuttosto che insomma in generale non ci fece una grandissima figura. No. La ricostruzione d'epoca e d'ambiente è anche interessante, appunto costumi, scenografie piuttosto ben fatta, che credo sia poi quello che ha colpito un po' in generale, che rimane di questo film. Sì, c'era pure l'accenno all'area da sorbetto che si diceva, esatto, prima. Esatto. In realtà appunto sul resto ci sono dei grossi problemi, un po' perché pur presentandosi come una biografia il film dà parecchie inesattezze storicamente, cioè il ruolo del fratello maggiore appunto Riccardo Broschi è notevolmente enfatizzato, mentre quello del primo maestro, come dicevamo appunto Nicola Porpora, lasciato in secondo piano, quindi insomma c'è già un grosso errore filologico in questo. Più il compositore Handel, interpretato da questo Jérôme Krab, viene tratteggiato come un nemico di Farinelli, una figura negativa, mentre in realtà appunto almeno in quel momento storico era direttore della Royal Opera House, che era sì il teatro rivale dell'Opera of Nobility in cui si esibiva più o meno fisso Farinelli, ma questo non vuol dire che Handel fosse suo nemico, e da come abbiamo già detto, anzi, insomma, pareva che avessero avuto contatti, e che invece questa è un po' una storia alla Salieri Mozart, secondo me, un po' inquinata lì. Però, siccome non l'ha scritta Pushkin, evidentemente non è di qualità, perché comunque anche la fiction deve essere di qualità, se no aiuto. Qualità. Di qualità. E ecco. Il periodo passato dal cantante in Spagna, poi alla corte del re Filippo V, viene invece praticamente ignorato nel film, che invece è uno dei momenti fondanti della carriera, e lo vedremo poi ripreso anche in altre opere teatrali e non, perché è un momento fondamentale per la carriera di Farinelli, chiaramente. Un elemento centrale del film sono le presunte avventure erotiche di Farinelli e questo modo un po' perverso di vivere la sessualità attraverso il fratello, che è assolutamente, io credo, non solo inventato, ma appunto basato poi, sì, cioè, su quali, su nessuna insomma, prova no, ma niente. Concreta. Ma quindi, tra l'altro, cosa che sono appunto altamente improbabili, come si diceva. Ma sì, ma tra l'altro in realtà non è che la castrazione poi portava a un'assenza di vita sessuale, tutt'altro, né a questa cosa per cui i castrati dovevano per forza avere queste vite, non lo so, sessualmente deviate, strane, macabre. Sì, ecco, mi sembra che il film punti un po' a questo, cioè purtroppo sì. Il film secondo me si concentra un po' sul gore, si concentra un po' su questo aspetto che forse è anche il meno interessante e di sicuro insomma non fa giustizia, ecco, alla carriera di questo artista. Per cui il consulente musicale del film, Christophe Rousset, clavicembalista e direttore d'orchestra francese, esperto di musica barocca, ha fatto un lavoro in realtà abbastanza buono. Sì, la colonna musicale è molto bella. Sì, anche perché appunto evidentemente un esperto. Come dicevamo prima, appunto era a microfoni off, la tecnica per riprodurre, no, quello di cui parlava appunto Maria fin dall'inizio della trasmissione, per riprodurre la voce che non abbiamo, ovviamente non esiste e di sicuro non c'è nel film, la voce del castrato, sono state registrate quindi separatamente, no, le voci. Sì, praticamente fecero un editing digitale tra le due voci, una cosa che al tempo penso fosse veramente strana e inusuale. Che erano le voci di un... Allora, erano la voce di un soprano che era Iwa Malas-Godlewska, penso si legga così, non lo so, e unita digitalmente con quella di un controtenore, Derek Lee Regin, non so come si legge. E poi praticamente ottenute le registrazioni singole dei due cantanti, le separate quindi, l'hanno mixata insieme e da questa è venuta fuori questo, cioè poi chiaramente ci hanno rilavorato al computer un bel po', è venuta fuori questa voce artificiale che in realtà risulta abbastanza credibile. Leggevo da alcuni che notavano che in realtà in alcuni punti si nota che dove l'estensione è molto alta si vede che c'è solo la voce femminile e al contrario in voci, pezzetti di voce molto più bassa si vede che insomma sono due persone diverse che la cantano. Comunque insomma però... questa è la tecnica utilizzata che poi Dionisi chiaramente canta in playback nelle scene e si vede. Sì, beh, poporetto. E quindi, diciamo, tecnicamente, musicalmente, sicuramente è stato fatto lavoro, è stata fatta una ricerca anche approfondita. Purtroppo il film, in quanto opera filmica, appunto, non sostiene, non valorizza tutta questa ricerca, perché appunto a livello di sceneggiatura in generale si concentra appunto su degli aspetti piuttosto... È chiaramente sempre difficile rendere appunto... Se si parla anche, se si pensa a Mozart, appunto a Amadeus di Forman, che già è un capolavoro, insomma, rispetto a questo, è sempre difficile perché comunque il film è sempre una semplificazione, è sempre un'opera che rende la parte per il tutto, ed è anche giusto che sia così, insomma, altrimenti sarebbe un documentario, certo. E questo è. Però, diciamo, c'è una scala di grigi, nel senso si può fare il bianco e si può fare fino al nero, insomma, in mezzo c'è una scala di qualità. Sicuramente questo film non ha... Vicino al nero. Sì, ecco, è più vicino, insomma, se non nei suoi aspetti tecnici, ma sicuramente nei suoi aspetti così di qualitativi, di opera, sicuramente, insomma, non è stato un gran risultato. Poi invece c'era un'altra opera che invece c'è. Abbiamo invece ultimamente abbiamo avuto questo suggerimento, anzi ringrazio Chiara che ci ascolta sempre da Londra e che è una grande amante del teatro e anche esperta e mi ha portato appunto alla mia attenzione questo spettacolo che è stato non so se tuttora lo è, ma insomma fino all'anno scorso portato on stage dal niente po' di meno che Shakespeare Globe Theater, quindi insomma una produzione appunto della una Globe Production che si chiama Farinelli and the King ed è interpretato da Mark Rylance, che è un bravissimo attore teatrale, ma anche di serie televisive, insomma, inglese, e parla appunto di Farinelli nel periodo in cui era alla corte di Filippo V di Spagna. E interessante, io non l'ho visto ovviamente purtroppo, ma chi l'ha visto dice che è un bellissimo spettacolo ed è interessante proprio perché all'attore che interpreta Farinelli chiaramente vengono fatte cantare in playback, ma non è un playback perché non è una registrazione, ma ci sono appunto dietro le quinte un, credo siano come nel caso del film, un soprano e un controtenore, credo proprio di sì, dietro le quinte, che si alternano e che cantano appunto le parti musicali dell'opera. Quindi un lavoro piuttosto interessante di playback, ma in diretta, per cui appunto questi due artisti mettono la loro voce a disposizione del personaggio, che è un attore evidentemente, chiaro. Grazie, ma poi quando finisce escono a prendersi un po' di applausi. Spero di sì, insomma, spero che gli tocchino gli applausi, credo di sì, e addirittura si alternano alcune sere uno, alcune sere l'altro, e a volte, credo, in alcune rappresentazioni si siano proprio sovrapposti, creando questo mix che nel film è stato fatto in digitale e lì viene fatto quasi dal vivo, insomma, dal vivo. Per cui, ecco, credo che quest'opera teatrale forse rendesse un po' più giustizia, fosse sì, un po' più interessante. Chissà, magari la film la manderanno al cinema, come spesso avviene per alcune opere teatrali e liriche, vengono proprio proiettate nei cinema di tutto il mondo. Quindi speriamo che questa sia una di quelle occasioni, o che si trovi forse la ripresa su... Se no ci facciamo andare il DVD da Londra. Magari. Il nostro agente a Londra ci manderà il DVD. E poi un'altra, l'ultima cosa che vi possiamo dire, così se vi siete incuriositi, è un documentario della BBC sui cantori, gli Emirati Cantori, che si trova in realtà su YouTube molto facilmente, diviso in varie puntate, e che boh, secondo me è molto interessante. Quello è più scabroso, cioè noi abbiamo sorvolato sugli aspetti medici, ecco, loro non sorvolano, quindi vi avverto che se lo volete vedere, insomma, sedetevi, prendete fiato, perché insomma è un po' agghiacciante, però è molto bellino secondo me, è purtroppo solo in inglese, però insomma è molto bello e interessante. Una piccola aggiunta allo spettacolo di cui parlavamo prima, Farinelli and the King, le musiche sono suonate su strumenti barocchi originali. Quindi ecco, deve essere stato proprio molto bello. Sì, tra l'altro la produzione è la stessa di Tu le matin du monde, il film insomma, sulla violata e gamba e Marè Marè, e quindi insomma non è una produzione notevole, quindi esatto, di qualità, come si dice. Sì, e insomma speriamo che ci tocchi di vederlo, almeno questo, insomma. Ok, bene. E allora invece vi lasciamo l'ultimo pezzo, così poi lasciamo campo a 3000 siepi, e sempre Handel, Farinelli, nel senso che non è stato scritto per lui, ma Farinelli del film, perché questo pezzo che vi facciamo sentire è tratto dal film di cui vi parlavamo prima, Lascia che io pianga, una famosissima aria di Handel, forse la più famosa. E in questo pezzo potete sentire appunto questo mix strano delle due voci maschili e femminili ricostruite digitalmente. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima e sorpresone, sempre su Wombat. Non sappiamo ancora e chissà di cosa vi parleremo. Sì. Ciao ciao. Ciao a tutti. Mia cruz.